Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. A tutti voi, cari ascoltatori, un saluto e una benedizione. Ci ritroviamo in questo nostro appuntamento mensile attorno alla parola di Dio. E in questa nostra puntata ho pensato di interrompere la lettura continua degli Atti degli Apostoli per dedicare un approfondimento alla figura di San Giuseppe, così come ci viene presentato nelle letture che oggi la liturgia ci propone. Mi sembrava, come dire, un peccato in una giornata come questa dedicata alla figura di San Giuseppe non sostare su i testi così belli che la liturgia ci offre e che ci permettono di entrare nella grandezza di questa figura. Allora chiediamo allo Spirito Santo di illuminare me che parlo, voi che ascoltate in questa nostra trasmissione, perché quanto condividiamo a partire dalla parola di Dio possa arricchire e illuminare la nostra vita. Come sapete, l'obiettivo di tutti i nostri appuntamenti con la tua parola mi fa vivere è proprio quello di sentire la parola di Dio non solo come un testo da analizzare, ma come l'incontro con una persona viva che tocca la nostra esistenza, la plasma e la rinnova. Ogni volta che noi con l'ascolto ci apriamo alla parola di Dio avviene in qualche modo il miracolo della creazione. La pagina della creazione che cos'è se non accoglienza di una parola che trasforma il caos in cosmos, il disordine in ordine, portando il suo spirito di vita. Bene, allora questa sera approfondiremo la figura di San Giuseppe, come dicevo, a partire dalle letture che la liturgia ci propone. La prima lettura era di oggi, della liturgia di oggi, è attinta dal secondo libro di Samuele e riporta la famosa profezia di Natan. La seconda lettura riguarda il tema della fede ed è attinta dalla lettera ai Romani. Il brano del Vangelo invece a cui faremo riferimento è il primo capitolo del Vangelo di Matteo. Dividerò la mia riflessione in tre momenti. In un primo momento sosterrò sui titoli che vengono dati a Giuseppe. Nel secondo momento sosterrò sulle qualità che emergono per quanto riguarda la figura di Giuseppe, mentre un terzo momento lo dedicherò alla figura apocrifa del padre di Gesù, cioè a come questa figura venga riletta nella tradizione successiva e come questa condizioni anche la nostra percezione della figura di San Giuseppe. Dopo l'esposizione, come sapete, sarà dato uno spazio anche a voi per eventuali considerazioni e domande. Quindi disponiamoci prima di tutto all'ascolto, ascoltando il testo del Vangelo di Matteo che oggi la liturgia ci propone. Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa. Infatti il bambino che è generato da lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio che tu chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Senza che egli la conoscesse, ella diede alla luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù. Bene, cominciamo a lasciare emergere da questo testo i titoli con cui Giuseppe viene identificato. Prima di tutto, il primo titolo con cui viene chiamato Giuseppe è quello di figlio di Davide. Così lo chiama l'angelo inviato da Dio nel momento del turbamento, del pensiero di Giuseppe, no? Si accosta a lui e gli dice: Giuseppe, figlio di Davide, non temere. Bene, in questo titolo ci sono gli orizzonti della missione di Giuseppe, che abbracciano tutta una storia. È una missione che affonda nel passato e il brano della profezia di Natan nella prima lettura richiama questo passato dove c'è tutto un popolo che viene raccolto, c'è tutta un'attesa di secoli che trova un po' il suo perno attorno ora alla figura di Giuseppe e del figlio che nascerà. È una missione che richiama una promessa, la promessa fatta a Davide. È una missione che si estende a tutti i popoli, come un grembo, non solo quello di Maria, ma anche quello di Giuseppe, che è destinato ad abbracciare tutti i popoli dentro di sé, attorno a quella casa di Dio che non è intesa come un edificio di pietra. Ricordiamo, Davide è il grande re che sognava una casa per Dio, però Dio non gli ha mai permesso di costruirgli una casa di pietra, perché Dio stesso ha edificato una casa per il suo popolo. E come l'ha edificata? Riunendo le 12 tribù di Israele attorno all'esperienza dell'unico Dio. Questa è la vera casa. La vera casa è là dove c'è comunione all'interno delle differenze e là dove c'è esperienza di Dio. Quindi Giuseppe viene visto come figlio di Davide proprio in questa prospettiva. Una missione che lo ricollega alla costruzione di una casa dove le pietre non sono pietre fisiche, ma pietre vive attorno all'esperienza di Dio, che prende il volto del Cristo Verbo fatto carne. Allora, già questo titolo, come dire, dà un tratto, è molto particolare la figura di Giuseppe. Giuseppe davvero è una figura, fin dall'inizio, fin da questo titolo, universale, nel senso che abbraccia tutta una storia passata, si estende al futuro con una promessa enorme attesa da secoli, e nello stesso tempo è uno spazio aperto per riunire i popoli più diversi. Pensate quanto questo può essere significativo per tutti i papà. Oggi è la festa del papà, giustamente si riflettono nella figura di Giuseppe. I papà sono coloro che sono chiamati a dare degli orizzonti ampi ai figli, sono chiamati a radicarli in una storia, la storia che li precede, sono chiamati a orientarli verso una promessa, il futuro che sta di fronte a loro, e sono soprattutto chiamati a creare questo polo di comunione, di unità, una casa, costruire una casa che non è fatta di pietre fisiche, ma una casa viva attorno all'esperienza di Dio. Dopo il titolo di figlio di Davide c'è però subito un altro titolo che viene dato dall'Evangelista Matteo a Giuseppe. E il secondo titolo è quello di uomo giusto. Giuseppe, poiché era un uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, dice Matteo, pensò di ripudiarla in segreto. Come intendere questo termine? Cioè, quale concetto di giustizia è celato dietro questo aggettivo? Di che giustizia si tratta? Di primo acchito viene spontaneo rispondere: è la giustizia che nasce dall'osservanza puntuale della legge. E così intenderà anche la tradizione apocrifa, cioè Giuseppe è l'uomo giusto nel senso che non vuole vivere una vita che sia in dissonanza con la legge mosaica. La liturgia però, accostando questo brano alla lettera ai Romani, ci spinge a cogliere dietro il Giuseppe come uomo giusto un'altra accezione di giustizia, che non è la solo, che non è solo l'osservanza puntuale della legge ebraica, ma è qualcosa di molto più grande. La giustizia che siamo chiamati a evocare qui è quella vissuta, sperimentata dal patriarca Abramo, evocato proprio nella seconda lettura di oggi, e evocato in un momento particolare, quello in cui viene detto che Abramo credette, Dio glielo accreditò come giustizia. Ora, questo episodio avviene in un momento molto particolare della vita di Abramo, quando Abramo, deluso per anni di attesa, in cui vede che non c'è nessuna effettiva concretezza alla promessa che Dio gli aveva fatto di un figlio, manifesta la sua delusione a Dio. E Dio cosa fa? Dalla tenda prende per mano Abramo, lo conduce fuori dalla tenda e gli dice: guarda le stelle, questa sarà la tua discendenza, non sarà un tuo servo a essere tuo discendente, ma uno nato da te. Questa sarà la tua discendenza. E il testo osserva dicendo: Abramo credette e Dio glielo accreditò come giustizia. Frase collocata al capitolo 15 della Genesi, prima della circoncisione, posta al capitolo 17 della Genesi, e soprattutto prima di ogni legge, collocata al capitolo 20 del libro dell'Esodo, quindi molto dopo. Allora, la giustizia, intesa alla luce di Abramo, non è l'osservanza della legge, o non è solo quella, ma è la consegna dell'uomo che, pur non constatando la concretezza delle cose, si fida di Dio e si pone nelle sue mani. Cioè un uomo che abbandona i calcoli umani per affidarsi a una concretezza misteriosa che è quella che gli porge Dio. E anche qua proviamo a fare un'associazione alla grande vocazione di ogni papà. Qual è il compito di un papà cristiano? E come San Giuseppe, è quello di indicare questa altra forma di giustizia, no? Cioè di imparare a leggere la vita non solo in un'ottica orizzontale basata sul calcolo umano, dove uno più uno fa due, ma educare a quella consegna alla logica di Dio, che non è una logica matematica, è una logica che non si muove solo su un piano orizzontale, ma che prevede, come dire, una linea verticale che ogni tanto spezza l'andamento comune delle cose e introduce l'imprevisto, la sorpresa, l'irruzione della grazia, la gratuità, la provvidenza divina, tutti elementi che cambiano la logica delle cose e invitano l'uomo a camminare non nella logica del calcolo, ma in quella della consegna laboriosa, cioè quella dell'affidamento nelle mani di Dio da protagonisti, non da persone, come dire, che stanno ad aspettare qualcosa che piove dal cielo, no, persone laboriose che però non vivono all'insegna del calcolo, ma della consegna nelle mani di Dio. Quindi due titoli già significativi abbiamo visto che emergono da questa pagina di Matteo: il titolo di figlio di Davide e il titolo di uomo giusto. C'è poi un terzo titolo che emerge da questa pagina di Matteo ed è il titolo di sposo di Maria. Pensate, in pochi versetti, per ben quattro volte Giuseppe viene presentato come sposo nel brano di Matteo. Questo titolo è molto importante, perché significa che Giuseppe non è solo una figura ornamentale nella storia della salvezza e nemmeno solo una figura funzionale. Purtroppo la tradizione apocrifa si orienterà su questa seconda linea, cioè farà di Giuseppe una figura funzionale, colui che protegge, colui che custode. Ecco, la letteratura canonica, quindi il Vangelo di Matteo, e non è l'unico, sottolinea la figura di Giuseppe come una figura in relazione La sua presenza è una presenza di relazione profonda, viva, concreta, al punto che il suo essere in relazione con Maria e con Gesù dà un'impronta particolare alla casa di Nazareth, al punto di essere un elemento imprescindibile nel discernimento del quotidiano, al punto di essere uno specchio in cui la relazione di Gesù, la relazione di Maria trovano libertà e gratuità. La prossimità di Giuseppe a Maria si fa condivisione di spazi, di gioie, di preoccupazioni e di respiri e rende Giuseppe un mediatore attivo dell'incarnazione del Verbo e del disegno di Dio. Quindi non ha un ruolo solo funzionale e tantomeno non è una figura ornamentale, ma una figura chiave che incide sulla casa di Nazareth e sui suoi componenti. È una figura che dà identità e missione a quello che avviene all'interno della casa di Nazareth. È sposo. Pensate, questo è quanto ravviva l'identità e la missione dei padri all'interno di una famiglia. I padri non sono all'interno di una famiglia solo per portare a casa uno stipendio, certamente importante, ma la loro prima vocazione è quella di essere sposi, persone in relazione. Un padre educa il suo figlio nella misura in cui la relazione con la madre è una relazione libera, autentica, rispettosa, gratuita, e possiamo aggiungere tutte le qualità. È questo che dà l'impronta educativa alla casa, al punto da incidere sull'identità e la missione della famiglia. Ecco, mi sembra che questi tre titoli, figlio di Davide, uomo giusto, sposo di Maria, già dicano qualcosa di prezioso che emerge proprio da questa pagina del Vangelo, alla luce anche delle altre letture liturgiche. Ecco, dopo questo primo approfondimento spostiamoci adesso sul secondo, cioè quali sono le caratteristiche di Giuseppe che emergono da questo brano. Prima però di arrivare a fare questo lasciamo un breve stacco musicale, un minuto di pausa, in modo che ciascuno possa rileggere un attimo il brano e poi insieme approfondiamo quelle che sono le caratteristiche, le qualità della figura di Giuseppe. Ecco, dopo aver approfondito i tre titoli di Giuseppe, così come emergono dalla pagina di Matteo, cioè figlio di Davide, uomo giusto e sposo di Maria, vediamo adesso le sue qualità. Quali qualità emergono da questo brano? Qualità che possiamo chiamare le virtù domestiche di Giuseppe, nel senso che hanno poi inciso sull'ambiente della casa di Nazareth. Mi sembra che tra le tantissime sfumature che si potrebbero evidenziare, alcune meritano una particolare attenzione anche per la loro grande attualità. La prima sfumatura che mi piace sottolineare è quella della discrezione. Giuseppe non è certamente un superficiale. Di fronte all'annuncio dell'angelo, di fronte a quello che Maria ha vissuto, sa bene la gravità della situazione, sa bene che Maria si trova con quella gravidanza in attesa di fronte a una pagina difficile della sua esistenza. La legge dava indicazioni ben precise in casi come questi, e se è vero che non era più applicata la condanna a morte era applicata solo nel caso in cui la donna fosse sposa a un gran sacerdote, quindi non è che si applicava anche a Maria, anche se non era più applicata a tutte le donne una condanna così grave, tuttavia la legge era molto dura. Giuseppe, di fronte alla situazione, sceglie di decidere e di agire nella massima discrezione. E la sua discrezione diventa tutela per Maria e i suoi familiari prima ancora di tutelare se stesso. Teniamo presente che l'uomo in casi come questo non era esposto alla vergogna pubblica se la futura sposa rimaneva incinta prima del matrimonio. Il problema non era mai dell'uomo, era sempre della donna. Era la donna e la famiglia della donna che venivano esposti alla vergogna. Decidendo di licenziarla in segreto, Giuseppe si addossa, lui, giudizi poco opportuni, agli occhi soprattutto di coloro che non sanno cos'è successo. Quindi già questo, considerato prima del messaggio che lui ha ricevuto poi in sogno, quindi la decisione viene presa prima, ci dice la grande statura umana di Giuseppe. Cioè Giuseppe nella situazione, posto di fronte alla difficoltà della situazione, la prima sua preoccupazione qual è? Tutelare Maria e la sua famiglia, non è tutelare se stesso. E esporre alle voci non Maria e la sua famiglia, ma esporre se stesso. Pensate a quanto questo ci può insegnare, no? Quante volte in una situazione difficile in genere agiamo in un modo del tutto diverso rispetto a questo. In una situazione difficile Giuseppe non si consulta con a destra e a sinistra, non riferisce la situazione a destra e a sinistra, non getta un'ombra sulla persona che lui non capisce, ma la tutela, preferisce tirarsi addosso a sé l'ombra pur di mettere in una situazione difficile la persona che ama, segno di una gratuità enorme. Seconda qualità di Giuseppe, l'ascolto. In questo brano, e non solo in questo, ma in tutte le vicende che caratterizzano il percorso umano e spirituale di Giuseppe, notiamo che Giuseppe mette sempre in moto la sua capacità di ascolto nell'affrontare le situazioni. Diverse sono le situazioni difficili in cui si verrà a trovare. C'è la gravidanza di Maria, poi ci sarà il momento del parto che viene a coincidere con il censimento, ci sarà la fuga dopo la nascita di Gesù, lo smarrimento nel Tempio, il mantenimento della famiglia. Ecco, in tutte queste situazioni Giuseppe non si presenta mai come una persona rigida. Ha sempre il cuore aperto al discernimento e allargato all'ascolto di Dio. Un ascolto che incide su di lui, perché una volta che ascolta l'invito dell'angelo in sogno, Giuseppe cambia prontamente i suoi schemi mentali. E lo stesso farà quando deve abbandonare Betlemme, lo stesso farà quando deve rientrare dall'Egitto. Questo ci dice che la sua caratteristica è quella di essere una persona in ascolto della voce di Dio. E questa voce plasma le sue scelte. È un uomo educabile, plasmabile, docile alla grazia. E questo dice, secondo me, qualcosa di importante anche per la missione dei papà, no? I papà sono chiamati a tenere il cuore aperto al discernimento e l'orecchio allargato all'ascolto per stimolare la vocazione dei figli. La modalità con cui questo si esprime richiede certamente scioltezza, malleabilità, iniziativa, però se non ci sono orecchi che ascoltano Dio, cuori pronti a lasciarsi mettere in discussione nei propri schemi dalla voce dell'angelo, è difficile, no? Che poi si riesca a generare il Cristo. Pensiamo se Giuseppe, aggrappandosi alla legge di Mosè, avesse detto all'angelo: questo non è previsto dalla tradizione, questo non si può fare, questo non si deve fare. A volte i papà rischiano di essere molto decisi su questi punti. Si è sempre fatto così, ho deciso così, bisogna far così. Ecco, Giuseppe non è un uomo che interviene in questo, no? È uno che apre le dimensioni delle scelte a un ascolto altro, a un orizzonte altro, e in quella luce coglie una via di bene che permette di fare delle scelte, che permette di discernere in modo diverso. Quindi, oltre alla qualità della discrezione, c'è la qualità di un ascolto che orienta l'esistenza. E arriviamo poi alla terza qualità che viene narrata non solo nel Vangelo di Matteo, ma anche negli altri Vangeli, soprattutto Luca, Marco, dove emerge la dimensione del sacrificio. Gesù era conosciuto come figlio del carpentiere, segno quindi che Giuseppe lavorava ed e lavorava sodo. Noi che siamo un pochino poeti, no? E non ci piacciono tanto forse le mani che si sporcano, che si rovinano, ne abbiamo fatto il falegname e abbiamo fatto diventare Gesù il figlio del falegname. Perché? Perché il falegname in fondo è un lavoro un po' più creativo, ci si sporca poco, ha una certa dignità. Ma in greco il termine utilizzato per dire il lavoro che faceva Giuseppe è il termine tekton, e questo termine in greco indica il carpentiere, indica un lavoro di manovalanza pesante e umiliante, che sovente era sottopagata e sfruttata, che incide sul fisico e sulle mani. Se Gesù ha ricevuto qualche carezza da Giuseppe, penso che l'abbia ricevuto, probabilmente se la ricorderà, perché le mani di Giuseppe non erano senz'altro delle mani lisce, a motivo del lavoro che faceva. Eppure, anche da questo, soprattutto da questo, Gesù impara quanto l'amore si intrecci con il sacrificio. E qui mi piace richiamare l'etimologia, no, del termine sacrificio. Cosa significa sacrificio? Sacrificio è una parola composta, no? Sacrum facere, cioè rendere sacro. Ciò che è sacrificio è una fatica che rende sacro ciò che viene affidato, una fatica vissuta non da soli, ma con il Signore. Quindi questo tratto di Giuseppe ci ricorda una verità è un pochino scomoda, cioè quando la nostra vita ha troppi comfort c'è qualcosa forse che non va, perché è raro che il disegno di Dio passi per una via confortevole. Gesù stesso lo dirà, e chi vuole seguirlo deve entrare per la porta stretta, perché è larga è la via che porta alla perdizione, no? Ma in genere è stretta la strada del discepolato. Quindi il discepolato è anche colui che riporta l'essenziale, richiama il senso, sottolinea il sacrificio delle cose. Quindi anche questo, come illumina l'orizzonte, la vocazione di un padre di famiglia, di un papà. Cioè un vero papà non risparmia i sacrifici ai figli. Un vero papà non dà tutto subito, ma educa a quella dimensione di fatica, di sacrificio, di mani magari un pochino rovinati perché bisogna concretamente lavorare con il sudore della propria esistenza, e aiuta a cogliere però in tutto questo la presenza di un Dio provvidente. L'amore vero ha a che vedere con un costo, un prezzo, un dono di sé. Mentre l'amore del mondo difficilmente va di pari passo con il rinnegamento di sé, non va di pari passo con il rinnegamento di sé, no? Quindi la dimensione del sacrificio è quella che caratterizza Giuseppe e che sarà poi ricordata nella narrazione in riferimento a Gesù. Addirittura alcuni studiosi ritengono che quando Gesù viene definito il figlio del carpentiere sia uno dei titoli di disprezzo utilizzati da Gesù, utilizzati per Gesù, nel senso di dire, ma come può pretendere costui di essere il Messia se è uno che è figlio del carpentiere, cioè se è figlio di uno che faceva un lavoro di manovalanza? Il Messia deve avere una cornice, una dignità totalmente diversa. Quindi vedete come questo brano non solo ci offre i titoli per capire la figura di Giuseppe, ma ci offre anche alcune sue qualità: discrezione, ascolto, sacrificio. Penso che queste tre istantanee di Giuseppe aiutino a illuminare la vocazione di tanti padri di famiglia e a mostrare quanto a volte alcune caratteristiche, alcune qualità che ci costano un pochino, siano però quelle che costruiscono il domani, che costruiscono il futuro. Entriamo allora nella terza parte del nostro approfondimento, cioè vedere come questi titoli e queste qualità si declinano poi in una recezione tradizionale un po' indebolita dalla letteratura apocrifa. Lasciamo ancora un breve stacco musicale prima di fare questo terzo approfondimento, per poi lasciare spazio alle vostre domande. Allora, abbiamo visto insieme i tre titoli che emergono nel Vangelo di Matteo per menzionare, per descrivere la figura di Giuseppe, quindi figlio di Davide, uomo giusto e sposo di Maria, e abbiamo sondato brevemente tre sue qualità che, così come emergono dal brano, la discrezione, l'ascolto di chi si lascia plasmare, e poi l'elemento del sacrificio. Adesso, dicevo, una terza parte della nostra riflessione la volevo dedicare a come la tradizione apocrifa ha poi trasmesso la figura di Giuseppe. Ora, nel percorso delle comunità cristiane ha avuto un'incisività particolarmente invasiva un testo apocrifo, uno dei testi apocrifi tra l'altro più antichi, sembra che sia stato composto attorno al 150 d.C., il cosiddetto Protovangelo di Giacomo. Al Protovangelo di Giacomo noi dobbiamo tanti elementi che sono entrati nella tradizione cristiana. Alcuni hanno a che vedere con Giuseppe, altri hanno a che vedere con i genitori di Maria, Gioacchino ed Anna, altri hanno a che vedere con i racconti più legati alla nascita di Gesù. Spesso però si dimentica che questo racconto apocrifo è un racconto che è imbevuto di eresia dall'inizio alla fine, cioè la sua preoccupazione è quella di difendere così tanto la purezza di Maria da allontanarla totalmente dall'umanità. Per cui Maria nasce, però durante tutta la sua vita, almeno nei primi anni di vita, non può appoggiare i piedi per terra, altrimenti si sarebbe resa impura. Può appoggiare i piedi per terra solo nel momento in cui, quando inizia a camminare, viene portata al Tempio del Signore, viene presentata al Tempio e vive al Tempio fino all'età di 12 anni, quando da bambina diventa oramai una ragazzina e quindi una donna. Ecco, il problema all'età di 12 anni, stando al Protovangelo di Giacomo, si pone perché ovviamente i sacerdoti cominciano a dire: ma come possiamo tenere una ragazzina che diventa donna all'interno del Tempio? E il racconto del Protovangelo di Giacomo va in questa direzione. Leggo il testo e lo commento. Quando Maria compì 12 anni, i sacerdoti tennero un consiglio e dissero: Maria ha già compiuto 12 anni nel Tempio del Signore. Adesso cosa dobbiamo fare con lei perché non rende impuro il santuario del Signore? E i sacerdoti dissero al sommo sacerdote: tu stai presso l'altare del Signore, entra nel santo dei santi e prega per Maria. Noi faremo ciò che il Signore ti rivelerà. Il sommo sacerdote entrò nel santo dei santi con il mantello dai 12 sonagli e pregò per lei. Allora l'angelo del Signore gli si presentò e disse: «Va e raduna i vedovi del popolo e che ognuno porti un bastone. La ragazza sarà la sposa di colui che il Signore designerà con un segno prodigioso». Allora notate, la preoccupazione è ancora quella di custodire da un lato la sacralità di Maria, dall'altro la sacralità del Tempio. E si menziona questi vedovi che si devono presentare con un bastone, perché l'obiettivo è quello di custodire la virginità di Maria, perché su di lei c'è un disegno particolare. Quindi gli araldi, il testo continua dicendo, gli araldi uscirono per tutto il territorio della Giudea. Risuonò la tromba del Signore, tutti si presentarono. Giuseppe, lasciata l'ascia, uscì anche lui per unirsi a loro, quindi Giuseppe era un vedovo. Quando tutti si furono riuniti, si presentarono al sommo sacerdote con i bastoni. Il sacerdote raccolse i bastoni, entrò al tempio e si mise a pregare. Terminata la preghiera, prese i bastoni e li restituì loro, ma nei bastoni non vi era alcun segno prodigioso. Ora, quando Giuseppe raccolse l'ultimo bastone, da esso uscì una colomba e si posò sulla sua testa. Il sacerdote disse a Giuseppe: «Giuseppe, sei stato scelto dalla sorte per prendere la Vergine del Signore, accoglila sotto la tua custodia». Giuseppe replicò: «Ma io ho già dei figli, sono vecchio, lei è una ragazza giovane, temo di diventare oggetto di scherno per i figli di Israele». Il sacerdote però disse a Giuseppe: «Temi il Signore tuo Dio e ricorda tutto quello che Dio fece a Datan, ad Albiron, a Core, come l'aprì, la terra si aprì e li inghiottì tutti per essersi debellati. Temi ora anche tu, Giuseppe, che una cosa simile non succeda a casa tua». Giuseppe allora, pieno di timore, prese Maria sotto la sua custodia. Giuseppe le disse: «Maria, ti ho ricevuto dal Tempio del Signore. Ora ti lascio a casa mia perché devo andare a continuare le mie costruzioni. Tornerò, il Signore veglierà su di te». Allora notate come avviene e quanti elementi che poi passano nella raffigurazione, no? E nel nostro immaginario. Prima di tutto il Giuseppe anziano, Giuseppe si scherma di fronte alla scelta del Signore in questo terzo testo apocrifo, sottolineando la sua anzianità. Ovviamente dietro il testo apocrifo c'è un motivo apologetico, però è talmente apologetico da togliere questa coppia umana dalla realtà di una relazionalità. Giuseppe diventa solamente il custode, c'è l'elemento del bastone fiorito, e in questo caso dal bastone esce la colomba, a volte anche Giuseppe è associato all'immagine della colomba, no? È legato anche a questo fatto qui. Uno sviluppo del testo apocrifo farà fiorire il bastone invece di far uscire la colomba. E poi c'è il fatto che Giuseppe sia un costruttore e a un certo punto, dopo aver portato a casa Maria, lui se ne deve andare per continuare le sue costruzioni. Ora, mentre Giuseppe non c'è, cosa succede? Avviene l'episodio dell'Annunciazione, cioè arriva l'angelo che annuncia a Maria l'incarnazione del Verbo dentro di lei, no? E il problema si pone quando Giuseppe torna, perché quando Maria, e qua salto un testo e dico come continua, no? Quando Maria si trovava già al sesto mese, Giuseppe tornò dalle sue costruzioni. Notate anche qui la preoccupazione del testo di tenere lontano Giuseppe fino al sesto mese. Quando Maria si trovava già al sesto mese, Giuseppe tornò dalle sue costruzioni e quando entrò in casa si rese conto che Maria era incinta. Allora si percosse il viso, si gettò a terra, si sedette su un sacco e pianse amaramente e diceva: «Con che faccia potrò guardare il Signore mio Dio? Quale preghiera farò per questa ragazza? Perché io l'ho ricevuta vergine dal Tempio del Signore mio Dio e non l'ho saputa custodire. Chi mi ha insidiato? Chi ha commesso a casa mia la malvagità di violare questa vergine? Si è forse ripetuta la storia di Adamo? Infatti, proprio mentre Adamo faceva la sua preghiera di lode, venne il serpente, trovò Eva sola e la sedusse. Così è successo anche a me. Giuseppe si alzò dalla stuoia di Iuta, chiamò Maria e le disse: «O prediletta di Dio, perché hai fatto questo? Ti sei dimenticata del Signore tuo Dio? Perché hai avvilito la tua anima, tu che sei stata allevata nel Santo dei Santi e ricevevi il cibo dalle mani di un angelo?» Lei si mise a piangere amaramente e diceva: «Io sono pura, non conosco uomo». Giuseppe le disse: «Ma da dove viene il frutto che c'è nel tuo ventre?» Ella rispose: «Per la vita del Signore mio Dio, ti giuro che non so da dove venga». Giuseppe ebbe molta paura e si appartò da Maria e rifletteva su che cosa dovesse fare con lei. Giuseppe si diceva: «Se nasconde il suo errore, mi troverò a oppormi alla legge del Signore. Se denuncio Maria e figli di Israele, temo che il frutto che c'è in lei sia opera di un angelo e io mi troverei a consegnare alla morte sangue innocente. Che cosa devo fare con lei? L'allontanerò in segreto». E così lo sorprese la notte. Ma di notte gli apparve in sogno un angelo del Signore che gli disse: «Non temere, Giuseppe, il frutto che c'è in lei proviene dallo Spirito Santo. Avrà un figlio, tu gli darai il nome Gesù, perché egli salverà dai peccati il suo popolo». Giuseppe si svegliò, glorificò il Dio di Israele perché gli aveva concesso questa grazia e continuò a tenere la ragazza sotto la sua custodia. Ecco, vedete come il testo continua evidenziando però ancora quegli elementi deboli che sono tipici dell'eresia che percorre tutto il testo. Il primo elemento debole di questo racconto è la descrizione di Maria, dove si dice appunto che Maria in tutta la sua vita non aveva mai preso un cibo normale, era stata nutrita sempre dagli angeli ed era stata allevata nel Santo dei Santi, cioè viene talmente esaltata la sua figura da non essere toccata praticamente dalla realtà di ogni essere umano. E questa è una grave eresia, perché significa dimenticare uno dei principi fondamentali della nostra fede, che è il principio dell'incarnazione. Dopodiché c'è il suo turbamento di fronte al sogno Giuseppe si sveglia, glorifica Dio che gli ha concesso questa grazia e continuò a tenere la ragazza sotto la sua custodia. Notate l'elemento ancora del custodire Maria. Ecco perché ho fatto questa associazione con il Protovangelo di Giacomo, perché noi rischiamo di vivere una solennità liturgica come quella che oggi ci viene offerto non solo sulla scia delle pagine bibliche canoniche, non solo sulla scia del Vangelo di Matteo o dei testi che la liturgia ci propone, ma anche un po' nell'orizzonte di una tradizione condizionata dal Protovangelo di Giacomo, condizionata quindi da un testo eretico, dove sia la figura di Giuseppe sia la figura di Maria vengono staccate dalla nostra umanità, non permettendoci di cogliere, uno, il grande mistero dell'incarnazione e, secondo, la bellezza di quei titoli su cui abbiamo sostato all'inizio. Giuseppe è poso, non ha solo un ruolo funzionale per custodire o per proteggere, ma ha un ruolo identitario, per la missione e l'identità della famiglia di Nazaret, e questo è importante. E oltre a questo ci sono poi gli altri due titoli, uomo giusto, ma non nel senso che è colui che osserva la legge, ma colui che nonostante la fatica si consegna nelle mani del Signore. Ecco, un altro elemento che emergeva nel testo apocrifo, sembra che una volta che riceve il sogno, evviva, tutto è passato, non c'è più nessuna preoccupazione, Giuseppe addirittura loda per questa grazia. C'è un tormento nell'uomo, c'è un tormento, però nonostante il tormento c'è la consegna per la percezione di un disegno altro, tipico della giustizia di Abramo, e Dio, Abramo credette e Dio glielo accreditò come giustizia. Così pure il terzo titolo, figlio di Davide, che fa di quest'uomo un uomo che è posto un pochino al perno di una storia, perché tiene la casa che gli ha affidata aperta a tutti i tempi, al passato, al presente e al futuro, e a tutte le generazioni, compresi tutti quei popoli che diventano un unico regno al tempo di Davide, al centro del quale c'è l'esperienza del Dio con noi. E qui termino con una sottolineatura. Se ci avete fatto attenzione, a Giuseppe viene affidato un ministero ben preciso, un ruolo ben preciso all'interno dei racconti della Natività. È lui che deve dare il nome al figlio. Il fatto di dare il nome al figlio significa considerare non solo quel figlio proprio, ma assumere in pieno la responsabilità di sposo e di padre che era stato enunciato dal testo, ecco, prima con quei titoli che insieme abbiamo visto e con quelle qualità che abbiamo cercato brevemente di sondare. Ecco, cari ascoltatori, questo è un pochino quello che volevo condividere con voi. Ora abbiamo un pochino di tempo per dare spazio anche alle vostre domande. Dalla regia vi saranno date le indicazioni su come porre le domande e resto in attesa dei vostri interventi, ringraziandovi fin d'ora per il vostro ascolto. Pronto, buonasera, con chi parlo? Sì, buonasera, parla con Roberta dalla provincia di Bergamo. Bene, Roberta, mi dica. Allora, ascoltando la sua catechesi, così più che una domanda, mi è venuta una riflessione riguardo all'importanza dei sogni, no? E anche alla veridicità e all'attendibilità assoluta che si dava a quel tempo, no? Al tempo di Giuseppe, ma poi anche più tardi, i sogni di Don Bosco, certo erano sogni profetici. Ecco, volevo così capire da lei un po' questa cosa, no? Quanta importanza assoluta, no? Dove tutte le risposte erano lì, nei sogni, no? Appunto di poi agire di conseguenza rispetto ai messaggi, no? Che venivano dati all'interno dei sogni. Grazie Roberta per questa domanda. Effettivamente hai evidenziato un aspetto che non ho toccato, ho solo letto, no? L'elemento dei sogni ha un significato importante. Il sogno è lo spazio dell'apertura all'altro, dove l'altro ha la A maiuscola, ha il volto di Dio, no? Che bussa alla porta della concretezza di ogni giorno. Il sogno permette anche di associare il brano di Matteo, dove Giuseppe viene evidenziato, con altri passaggi biblici, e ne evidenzierei soprattutto tre. Il primo passaggio biblico sono tutti passaggi biblici di alleanza, guarda caso, il che stringe ulteriormente Giuseppe a Maria, come sposo di Maria, nel senso che è proprio l'emblema dell'alleanza, il momento in cui c'è il sogno, viene confermata l'alleanza, quindi il suo ruolo importantissimo nel rapporto con Maria. Quindi dicevo, tre sogni emergono chiaramente. Il primo è quello di Adamo, da cui sgorga Eva durante il sonno, in questo caso nel sonno, grazie al sogno, grazie alla parola dell'angelo, Giuseppe decide di prendere Maria con sé e quindi di inaugurare questa pagina nuova grazie alla quale inizierà la nuova alleanza nella cornice di una nuova coppia umana. Il secondo momento del sogno è il sogno di Abramo. Anche qui il sogno è legato all'alleanza, quando Dio assicura la conferma della promessa ed invita ad Abramo a preparare tutti gli animali per siglare l'alleanza. Tutti e due dovrebbero passare in mezzo a questi animali, però un grande torpore scende su Abramo e l'unico che prende l'impegno è Dio stesso. Abramo non prende nessun impegno, quindi è un'alleanza unilaterale. Ecco, il sogno nei confronti di Giuseppe in un momento delicato è la conferma, la firma di Dio su quello che sta succedendo in Maria, ed è un impegno unilaterale con Giuseppe, no? Nel senso che Giuseppe diventa strumento prezioso nelle mani del Signore, e il Signore gli promette di non aver timore, insomma, no? Che sarà sempre accanto a lui. Terzo sogno, che è collegato, può essere collegato al ruolo dei sogni nella vicenda di Giuseppe, è il sogno di Giacobbe nella cornice del territorio di Luz. Il sogno famoso: Giacobbe sta fuggendo, sta andando da Labano, dallo zio, e si ferma durante la notte in un luogo, e lì fa quel sogno della scala dove gli angeli salgono e scendono. Quindi quel sogno diventa il luogo che, pur nel tormento della scelta che lui ha appena fatto, la terra è il luogo dove Dio sale e scende, dove Dio è con il suo popolo, al punto tale che Luz viene anche ribattezzata con un altro nome e diventa Betel, cioè il guscio. Luz significa guscio, diventa una casa di Dio. Questo è quello che succede a Giuseppe durante il sogno, confermato dall'angelo. Lui, che rischierebbe di chiudersi e di trasformare il disegno di Dio in un guscio, aderendo anche lui, dicendo anche lui il suo eccomi, il suo sì all'opera di Dio, trasforma l'opera di Dio in una casa di Dio, in una famiglia di Dio, permettendo così alla storia di andare avanti. Quindi grazie Roberta per la tua domanda, perché effettivamente ci ha permesso di approfondire ulteriormente la vicenda di Giuseppe. Grazie. Pronto? Sì, buonasera, con chi parlo? Anna Maria di Monza Brianza. Mi dica, Anna Maria. Sì, io la ringrazio che ha voluto in Radio Maria oggi, che proprio ricordiamo, la Chiesa ricorda, questa figura emblematica di questo santo ancora tutto da scoprire oggi, perché è un santo che fa miracoli con le persone che lo invocano. Io posso dare una testimonianza, perché la devozione a San Giuseppe me l'ha trasmessa la mia mamma, perché lei l'ha vissuta in pieno, questa adozione di figli. Ne aveva adottati due, poi ha avuto quattro noi. Quindi lei, per il mese di marzo, era il mese più bello dell'anno dopo il mese di maggio, perché era dedicato a San Giuseppe, quando era poi la festa di precetto, che la Chiesa a metà quaresima, c'era quella bella ricorrenza lì, e è un santo di vita interiore per i lavoratori, per le famiglie e per i morenti. Tutti i giorni nel rosario, ancora noi adesso qui, dove sono in parrocchia, io recito sempre la preghiera a te, o Beato Giuseppe, che si recitava sempre durante la visita al Santissimo, sempre col rosario. Io la recito ancora. E in più faccio riscoprire a tutti questa devozione, che è provare per credere. Perché San Giuseppe è un santo molto silenzioso, però fa di quelle grazie che nemmeno noi ce le immaginiamo. Io vorrei dare un suggerimento. Preghiamo, preghiamo, preghiamo San Giuseppe, che la Madonna ci sorriderà ancora di più perché è stato il suo sposo, no? E poi ha allevato Gesù col suo lavoro, che la Chiesa, che poi lui è custode, no? Papa Giovanni XXIII l'aveva messo, come e poi tutti gli altri papi, anche il nostro Papa Francesco è molto devotissimo, c'ha sulla scrivania San Giuseppe che sogna, evviva, vorrei andare avanti ancora, ma lascio spazio agli altri. Grazie Anna Maria per il tuo intervento che ha arricchito con questo taglio anche esperienziale la nostra riflessione sulla figura di Giuseppe, no? Effettivamente Giuseppe è l'uomo anche della provvidenza, colui che nei diversi tornanti della vita, soprattutto nei momenti più difficili, delle scelte più difficili, pensiamo alle lotte del quotidiano, agli imprevisti della vita, al momento del transito, che è il momento del passaggio alla casa del padre, è uno dei momenti più delicati della nostra esistenza, il momento della povertà, ecco, tutti questi momenti è colui che provvede in maniera silenziosa ma efficace. Grazie Anna Maria per il tuo intervento. Pronto? Pronto? Buonasera, con chi parlo? Allora, sono Marzia da Treviso e Paternello di Paese, veramente. E mi sono collegata un po' tardi mentre lei parlava di San Giuseppe, ma siccome ultimamente sentivo anche la signora precedente, Anna Maria, quanto è vero che San Giuseppe con la sua paterna provvidenza, insomma, ha a cuore soprattutto i papà di famiglia, i lavoratori, ma ogni nostro bisogno, e ho visto anche, riferendomi ultimamente anche alla ricerca di lavoro per la figlia, per altri suoi affanni, e anche le parole stesse di Santa Teresa d'Avila, che diceva: ogni nostra necessità fatela presente a San Giuseppe. Vengo però alla mia domanda. Mi domandavo, la signora Presidente ha detto questo santo silenzioso. In effetti si parla anche tanto poco nel Vangelo di lui, cioè, per carità, lei ha delineato il momento in cui la fuga in Egitto, la scelta del nome per Gesù, eccetera, però la Madonna stessa ne parla poco di lui. Ecco, questa è la mia domanda. Vorrei chiedere come mai fai una scelta, è voluto, io sento sempre la Madonna anche attualmente, insomma, Gesù, mio figlio Gesù e lo sposo. Giuseppe, logicamente, perché padre putativo e anche sposo suo comunque qui in terra. Ecco, questa è la mia domanda, come mai, insomma, questo silenzio su di lui anche da parte un po' di Maria, ecco, se posso. Appunto. Allora, cara Marzia, la ringrazio della sua domanda. Se noi ripercorriamo i testi, non è poi così vero che di Giuseppe si parli così poco. Certo, noi vorremmo sapere molto di più e alla nostra curiosità ha cercato di rispondere, a mio avviso, in modo non sempre felice, la tradizione apocrifa. Però la tradizione biblica, soprattutto il Vangelo di Luca, il Vangelo di Matteo, alcuni passaggi del Vangelo di Marco, ci parlano della figura di Giuseppe, e se è vero che è silenzioso, è anche vero che l'unica parola che lui pronuncia è quella essenziale. L'unica parola che Giuseppe pronuncia è Gesù, perché è lui che gli pone il nome e gli dà nome Gesù, come gliel'ha richiesto l'angelo nel momento del sogno. Quindi con questa unica parola posta sulle sue labbra, Giuseppe diventa il modello di quell'unica parola che regge tutta la nostra esistenza, il nome di Gesù. Non dimentichiamo che nella prima generazione cristiana i credenti erano i discepoli del nome, e questo nome non era solo una dicitura, ma rendeva presente il Dio fatto uomo che cammina in mezzo ai suoi. Grazie Marzia per il tuo intervento. Buonasera, sì, con chi parlo? Buonasera, sono Marco da Bergamo. Mi dica Marco. Sì, volevo chiederle questo. In Giuseppe io vedo, come dire, due aspetti. L'uno è l'individuo dubbioso in un primo momento, con le proprie paure, eccetera, eccetera. E l'altro aspetto invece è l'aspetto appunto dell'uomo che si affida a Dio e che sostanzialmente dona la propria vita per Dio e per il suo progetto. Ecco, nella vita quotidiana, rivedendomi in lui, nei momenti proprio di vita quotidiana in cui si è di fronte alla domanda se donarsi o meno, mi può spiegare qual è la bellezza del dono? Cioè, qual è il senso e la bellezza di dire dico di no al mio ego per abbandonarmi a un progetto più alto di me? Non so se mi spiego, se la mia domanda è sufficientemente chiara o... Penso di averla intesa, però ecco, lei mi perdonerà se magari non l'ho intesa come magari lei voleva, no? Ha posto una domanda cruciale: qual è la bellezza del dono, in che cosa consiste la bellezza del dono? Prima di tutto faccio un cenno alle due dimensioni, dubbio e consegna. Il dubbio e la consegna, penso, o il dubbio e la fiducia, il dubbio e l'affidamento, camminano un po' a braccetto nella nostra vita. Il dubbio non lo dobbiamo vedere come qualcosa di negativo che si affaccia sulla nostra esistenza, ma come quella domanda che ci aiuta ad approfondire le cose, ci aiuta a chiedere luce allo Spirito Santo, ci aiuta a fare spazio. Qual è la cosa più bella del dono? Secondo me, nella mia povera esperienza, la cosa più bella del dono è il fatto che il dono ci obbliga a fare spazio. Il dono ci obbliga a liberarci un po' dalle strettoie dell'io per fare spazio dentro di noi a Dio. E quando noi facciamo spazio a Dio, all'altro, come dire, la nostra vita si apre a tante grazie inattese. All'inizio di questa trasmissione ho fatto un po' l'esempio della creazione, no? La creazione, se noi la pensiamo fin dall'inizio, dalla prima pagina della Genesi, che cos'è? È lo spazio che si fa accogliente al dono della parola. E quando questo spazio, questo caos si apre al punto tale che la parola di Dio può trovare spazio, e la parola di Dio trasforma, non ha paura del caos, non ha paura delle tenebre. Laddove la parola entra, trasfigura, trasforma. Ecco, la capacità di dono che cos'è? È questa capacità di fare spazio a una parola di Dio che entra e trasforma l'esistenza. È la capacità di trasformare il guscio in casa di Dio, Lutz Betel, come era successo a Giacobbe. E questo ottiene miracoli. Cioè, ogni atto di fede è un atto che ci obbliga ad aprire le tende. Abbiamo riflettuto prima anche sulla figura di Abramo, no? Abramo che viene portato fuori dalla tenda per guardare le stelle del cielo. Non è solo un movimento, è proprio un invito all'apertura, ad abbandonare quegli orizzonti ristretti e magari un po' affumicati dall'odore delle pecore, della tenda, del beduino, per mettersi sotto un'altra tenda che Dio ha tessuto, che è la tenda della volta celeste. Quindi aprire gli orizzonti della mente e del cuore. Ecco, il dono penso che vada inteso in questa prospettiva. Grazie Marco per la tua domanda. Cari ascoltatori, dalla regia mi dicono che il nostro tempo è terminato, quindi ringrazio quanti sono intervenuti, Roberta, Anna Maria, Marzia e Marco. E mi permetto di fare un augurio a tutti i papà che sono in ascolto. E permettetemi un augurio un po' particolare a mio papà che puntualmente tutti i terzi lunedì del mese mi ascolta da casa con attenzione e poi quando richiamo è il mio primo censore, però lo fa con tanta bontà e dedizione. Quindi un augurio a tutti i papà, un augurio a mio papà e grazie davvero che ci siete, perché se il disegno di Dio si compie in noi è anche perché accanto a noi ci sono dei padri e delle madri. A tutti voi la benedizione del cielo e che Gesù e Maria continuino ad accompagnarci, ad aiutarci per vivere bene la prossima Santa Pasqua. Buona serata a tutti. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.